Salve a tutti, questa è Radio Big World, io sono Jasmine e benvenuta alla sesta puntata di Curiosità Animate, dove parlerò dei classici Disney. Oggi parliamo di due film, ovvero Saludos Amigos e I Tre Caballeros, che sono film molto simili anche per i personaggi e sono stati fatti quasi uno in seguito all'altro. Saludos Amigos è il primo di cui parleremo ed è il sesto classico Disney ed è stato distribuito e diretto nel 1942. È un po' come fantasia e quindi è basato su dei segmenti, quattro per la precisione, incentrati sull'America Latina. I protagonisti sono Paperino, Pippo e un nuovo personaggio introdotto, ovvero il pappagallo brasiliano José Carioca. I segmenti hanno come filo comune l'America Latina, dove Paperino e Pippo fanno da turisti americani alla scoperta del continente. Il primo spezzone, chiamato Lago Ticatica, vede infatti Paperino in veste di turista del luogo, dove farà conoscenza con abitanti del posto. L'ultimo segmento, invece, Acquarello del Brasile, è invece molto ispirato a fantasia e vede José Carioca viaggiare insieme a Paperino, fra le vedute del Sud America, sulle note della samba. Saludos Amigos ebbe sin da subito abbastanza successo, ricordiamoci che era in tempo di guerra, tanto da permettere l'uscita di una specie di seguito, ovvero I Tre Caballeros, distribuito nel 1944. Anche quest'ultimo è impostato in episodi, uniti da un tema comune, sempre riguardante l'America Centrale e Sud America. I protagonisti principali stavolta sono Paperino, José Carioca e un nuovo personaggio, ovvero Panchito Pistoles, un gallo pistolero proveniente dal Messico. I Tre Caballeros, a differenza dei Saludos Amigos, ha un'impostazione meno propagandistica. I film infatti erano stati prodotti per pubblicizzare l'America Latina e quindi un po' come regola di buon vicinato. Se Saludos Amigos era molto più simile ad una cartolina, I Tre Caballeros avevano puntato più sull'immaginazione degli animatori. Il filo comune degli spezzoni sono dei regali che i due latini fanno a Paperino, permettendogli di scoprire a tempo di musica le varie zone e tradizioni dei luoghi interessati. In questo lungometraggio avremo anche come in fantasia, per esempio, degli spezzoni live action di attrici latinoamericane famose nel periodo come Aurora Miranda. Sia Saludos Amigos che Tre Caballeros sono stati nominati agli Oscar per la loro colonna sonora, ma solo l'ultimo ha vinto il premio nel 1946. Entrambi i film, pur distribuiti in tempi di guerra, hanno avuto un discreto successo, tanto da permettere un certo lancio della moda dell'America Latina che poi si diffonderà tipo negli anni 60 e successivi o negli anni 50. A livello di animazione e di ambientazioni, questi due film sono molto peculiari e soprattutto hanno mostrato la versatilità degli studios. Grazie per avermi ascoltato, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.